Linee d'ombra di Matteo Caccia. Se solo mi potessi aiutare. È una faccenda d'amore? Per favore, di no. No, carina come idea. I miei affari vanno male. Porta Susa, treno in orario, come la riconoscerò? Potrebbe essere quella lì, avrà 40 anni? O forse è la Bruna che sta scendendo dalla carrozza 4 e si guarda intorno? Storie di incontri fortuiti e di destini imprevedibili in una puntata che si intitola L'amore, quello vero. Ho avuto la strana sensazione che tu fossi in linea adesso. Ciao. Io ti posso dare dei consigli. Sono bravissimo a consigliare. Se solo mi potessi aiutare. È una faccenda d'amore? Per favore, di no. No, carina come idea. I miei affari vanno male. Ah, bene. Io sono un uomo d'affari di successo. È quello che so fare meglio. E di che affari ti occupi? No. Niente particolari, ti ricordi? Ok. Bene. Senza particolari è difficile aiutare. Ti posso solo dire, vai ai materassi. Ti posso solo dire, vai ai... Che cosa? Significa? È da il padrino. Significa che devi scendere in guerra. Oh. Perché prima di essere un programma televisivo in cui le persone della stessa famiglia o amici o ex amici si incontrano mettendo in piazza senza alcun tipo di imbarazzo le proprie cose in uno studio televisivo, C'è Posta per te è stato un film. Era un film con Meghan Gale e Tom Hanks, le cui voci, o meglio le voci dei doppiatori italiani, le avete appena sentite, e parlava di un amore che si incontrava a distanza. C'è stato a un certo punto, più o meno 20 anni fa, il boom delle persone che si conoscevano su internet. Quel boom continuo, o meglio si è sviluppato, le app da Tinder ma anche Facebook, Instagram diventano poi spesso e volentieri delle scuse per conoscersi tra uomini e donne, o tra donne e donne, uomini e uomini. Ovviamente non facciamo differenze di genere, però insomma quello che ha a che fare con l'amore, insomma incontri sentimentali, in alcuni casi invece solo fisici, ma tant'è. L'amore quello vero si intitola la puntata di oggi, e la storia che vi raccontiamo, la prima storia che vi raccontiamo ma anche la seconda, entrambe le storie hanno proprio a che fare con questo, con amori che nascono a distanza attraverso un computer, attraverso una linea internet, e poi si incontrano a un certo punto della loro vita in maniera, queste due storie devo dire, abbastanza diversa. È proprio la linea d'ombra che vi raccontiamo oggi a che fare con queste storie, con quel confine. Quando lo valichiamo quel confine? Ci conosciamo solo su uno schermo e a un certo punto ci vediamo, e da lì in avanti che cosa succede? Prima di cominciare a raccontarvi la storia di oggi, però, come tutti i giorni in questi tempi difficili in cui stiamo il più possibile chiusi in casa, noi continuiamo a raccontarvi i diari della nostra nuova vita, aggiungo sempre, speriamo breve, molto breve vita, che si svolge all'interno delle loro case, delle nostre case, perdonatemi. E devo dire che giusto ieri sera, guardando fuori dalla finestra di casa mia, io sto in un palazzo che ha un cortile, devo dire che anche come epoca e come vecchiaia dell'edificio ricorda molto la finestra sul cortile di Hitchcock, che se non l'avete visto, guardatelo immediatamente, sono i giorni perfetti per farlo questo, e si vedevano le vite delle persone all'interno delle case di fronte, che è una cosa che non succede sempre, perché è un palazzo di gente abbastanza, diciamo, giovane il mio, senza figli, e quindi escono spesso quando si può uscire. In questi giorni invece stanno in casa, e guardando quelle finestre mi domandavo, chissà cosa starà facendo Ray, chissà cosa starà facendo Antonio, chissà cosa starà facendo Giovanni. E grazie alle vostre storie lo stiamo scoprendo, cosa sta facendo Ray o Antonio, ma cosa state facendo voi nelle vostre case. Stiamo facendo una sorta di piccola fotografia dell'interno delle nostre case. Vi chiedo di continuare a farlo. Se avete voglia di mandarci i vostri diari della nostra nuova breve vita, mandatecele a lineedombra@radio24.it. C'è un ragazzino che casualmente si chiama Ray, come il mio vicino di casa, Ray Sambo, fa la prima liceo, mi scrive: ciao, sono Ray Sambo, ho 14 anni, vivo a San Pietro in Vincoli, nel comune di Ravenna, e frequento la prima classe M del liceo artistico musicale Casanova di Forlì. Caro Matteo, ti invio questa storia, sei forte, e mi scrivere all is well, andrà tutto bene. Grazie Sambo, questa è il diario di questi giorni di Sambo. Comunque, ogni mattina lei mi sveglia. Con il suo pelo morbido, i suoi occhi vispi, le sue zampotte nervose. Chissà se a lei tutto appare normale o se nella sua mente canina si chieda perché non vado via la mattina presto grattandole la testa mentre lei è ancora russa nella sua cuccia. Poi si scende in cucina. La colazione è già pronta, tanto mamma sta già lavorando. Il suo telefono squilla di continuo. E lei, tra una chiamata e l'altra, trova pure il tempo di accennarmi un sorriso. So che è stanca. Il lavoro in ambulatorio non manca di certo. Mio babbo probabilmente è già a lavorare in sala operatoria, sempre se lo fanno entrare perché ultimamente i controlli in ospedale sono molto rigorosi. E io ho tutta la giornata davanti. Già, magari i primi giorni non erano neanche male. Francamente alzarmi tutti i giorni alle 6 un po' pesa. Ma ora, dopo 10 giorni di infinite domeniche, non ne posso più. Mi manca la mia vita, la mia scuola, i miei compagni. Cerco le ultime sul registro elettronico, sento mio fratello più grande che inizia a seguire le lezioni online, io provo a leggere le ultime notizie e poi ci rinuncio dando la colpa alla mia poca voglia di leggere. Al cellulare ascolto gli audio dei miei compagni, li cerco tutti, pure quelli che in classe non sopporto, mi dà un senso di tranquillità e di quotidianità. Inizio i compiti un po' di ripasso, 2 o 3 libri, devo scrivere, devo esternare le mie emozioni. Allora suono e mi manca la mia prof di flauto. Cambio strumento, mi manca il mio prof di piano, accendo la TV e ancora sto virus, non ne posso più. Allora prendo Zoe, che non attendeva altro, vedo il guinzaglio, si accuccia tra le mie gambe. Usciamo, fa caldo, la primavera quest'anno è in netto anticipo, beffarda direi. 2020, l'anno più caldo di sempre. Camminiamo in mezzo ai campi, l'aria è deliziosa. Guardo attorno a me la natura, le strade deserte, le anatre che nuotano nei fossi. Il virus non si vede, eppure sta fermando la mia vita. Mi chiedo se ho paura. Non mi sento solo intrappolato in una nube. Ho bisogno di riprendere la mia vita e non poterci mi rende triste. Poi alzo lo sguardo e sembra che al territorio che mi circonda non importi nulla, come al mio cane che annusa l'aria cercando odori attraenti. Torno a casa. Anche Aaron, il mio fratellino più piccolo, si è svegliato e prova a fare inglese con una pronuncia improponibile. Ho trovato la mia missione per la prossima ora. Meno male che ci sono loro. Spero che non si ammalino mai. Non vorrei vederli soffrire. Alla fine mi convinco e ricomincio a suonare. E Zoe si avvicina con il suo pelo morbido, i suoi occhi vispi, le sue zampotte nervose. All is well. Tutto va bene, Zoe. Va tutto bene. E questa è la storia di Ray Sambo. Ray ha 14 anni, lo ringraziamo per avercela mandata questa storia. Se avete voglia di continuare a farlo, di continuare a tassellare il nostro programma, che continua a raccontare storie anche in questo momento delle vostre piccole avventure o disavventure quotidiane durante questo breve periodo che in qualche modo sta cambiando la nostra vita, linee@radio24.it, una piccola pagina di diario con il condensato di una vostra giornata. Se invece non avete voglia di pensare alla vostra giornata perché già sufficientemente noiosa e lunga da far passare, pensate a una storia da mandarci, a una storia di quelle che riguardano Linee d'Ombra. Noi continuiamo a raccontarle, proprio come ha fatto il prossimo ascoltatore, che ci racconta la storia di un incontro d'amore. Quindi vale tutto davvero. Sapete che qui a Linee d'Ombra raccontiamo storie in cui in mezzo c'è un confine. In questo caso il confine è varcare lo schermo e incontrarsi di persona. Ma il confine può essere quello di un viaggio che si comincia a fare, può essere di un cambiamento di stato, da giovane uomo a uomo adulto, da giovane donna a donna adulta, può essere qualsiasi storia che ha a che fare con un cambiamento. Linee d'Ombra è anche questo. linee@radio24.it. Mettetevi comodi, incominciamo. Porta Susa, Torino. Treno in orario e anch'io sono puntuale. Come la riconoscerò? Potrebbe essere quella lì. Cosa avrà? 40 anni? No, forse è la Bruna che sta scendendo dalla carrozza 4 e che si guarda intorno. Quell'altra estrae il cellulare dalla borsa, ma il mio squilla già. Mi incammino verso un'altra che ha già la mano armata all'orecchio e chiedo: Marta? Sì, sei Sandro? Sì, sono io. Prima volta a Torino? Baci e abbracci. Sì, è prima volta che ti vedo e che ti sento. Rendi meglio che in foto e sei alto. Per me sei una completa sorpresa, le dico. La tua foto era pressoché incomprensibile. Sono troppo alto? No, non troppo. Quello che vedi ti piace? Mi chiede lei. Sì, rispondo io, mi piace. Un caffè o data l'ora andiamo a pranzo? Cosa preferisci? A pranzo ci raccontiamo un po' di vita. Situazione sentimentale, figli, lavoro, famiglia, letture, pensieri. È una bella giornata di agosto. Fa caldo. E passeggiare all'ombra dei portici è gradevole oggi che c'è poca afa. Giriamo a piedi tra turisti e negozi chiusi. Piazza Carignano, Piazza Castello, Piazza San Carlo, Via Po, La Mole, Piazza della Gran Madre. Nel frattempo ci si conosce un po', dai gusti di gelato preferiti alla musica, cinema e senso della vita. A me Torino così tranquilla con poche auto come in questo periodo piace molto, dico. Ma torniamo all'auto per andare in hotel dalle parti di Corso Svizzera. È qui che di solito porti le tue donne? Mi chiede. Non ci crederai, ma sei la prima che porto, rispondo. Eh sì, come no, non ti credo. Stanza perfetta, ultimo piano, bella vista, doccia grande per due, letto comodo, silenziosa, discreta. Guardandoti, difficile poterci credere. No, davvero, ripeto, sei la prima con cui sono qui o altrove, dopo Anna. 25 anni insieme e non hai mai avuto altre donne, mi chiede lei. No, non mi interessava averne, rispondo io. Impossibile. Ed ora ci sono io qui con te. Sarei la prima, giusto? Sì, ma non capisco la difficoltà, dico io. Mi faccio una doccia e poi usciamo a cena e te la spiego. Passa un anno intero, giorno dopo giorno, ci guardiamo indifferentemente, diventiamo estranei l'uno all'altro. Non facciamo niente per recuperare tutti quei momenti, quegli istanti che ci hanno fatto innamorare. Noi restiamo ormai senza saper dire una sola frase, una parola, balbettiamo appena qualche sì. Il piatto forte è la bracciola di cinghiale. Ne prendiamo due dopo un antipasto misto piemontese. Due birre e un rum. Continuiamo un giro nella splendida Torino, di notte. Essere la prima dopo la tua ex, mi dice. Non mi piace. Mi sembra di interrompere io la vostra relazione. Ti ho detto che lei ha già un altro, le rispondo. Non interrompi nulla, non c'è crimine. Nessuno mai ti attribuirà nulla. No, guarda, non posso, non me la sento, mi dice. Ho trascorso con te una bella giornata, devo ammettere che ne è valsa la pena di mentire ai miei per lasciare loro i miei bambini dicendo che venivo da un'amica a Torino, continuo. Certo, è un peccato perché sei proprio una bella persona. Inoltre somigli tanto a quello lì che ti ho detto oggi e che mi piace tanto. Spiace anche a me, le dico. Potevamo non piacerci, non essere in sintonia. Anche io sono stato bene oggi con te. Sei sicura di voler lasciare? Sdraiati nel letto, mezzi nudi, accediamo a memorie e pensieri molto intimi, con quella bella sensazione di potersi confidare ad un livello possibile solo con estranei o con psicologi. Le risa non mancano. Non parlo di sesso con amici maschi, ma con le donne è tutta un'altra cosa. Sai, sei troppo un bravo ragazzo, mi dice. Dovresti ascoltare un po' di più il tuo lato selvatico. Preferisci quelli un po' rudi? Le chiedo. Rude? Ma, forse. Scherziamo, ci prendiamo in giro su questo, ci permettiamo lazzi e battute di ogni tipo, mentre le ore si fanno sempre più piccole. Verso le 3, quando ormai crolliamo di sonno, nel silenzio avvertiamo dei passi in corridoio. Qualcuno entra nella stanza di fronte alla nostra, con cui evidentemente condividiamo una parete interna. Queste stanze sono le ultime due del corridoio. Dopo qualche minuto avvertiamo voci e cigolii, l'ansimare di una coppia, e noi scoppiamo a ridere in modo tale che l'attività nella stanza vicina si interrompe. Furiosamente togliamo il resto dell'intimo che ancora avevamo addosso, i nostri corpi fanno il resto. Anche nella stanza adiacente gli altri riprendono. Il giorno dopo, Bicerin. Certo che sembri tanto inglese e distante, ma quando ti avvicini, non immaginavo, mi dice. Tra 30 minuti ho il treno, chissà se capiterà di incontrarci ancora, tu a Torino e io nella mia città, vite distanti e parallele. Io l'accompagno al treno e la ringrazio per il bel tempo trascorso insieme. Sandro mi dice, non lasciare sepolto il tuo lato primitivo. Il cinghiale, fallo vivere. Ciao e buona vita. Un ultimo bacio affettuoso e risale sul treno per tornare alla vita da cui si era presa un paio di giorni. It's in my blood, it's in my water. You tried to tame me from the start. When that deadness in your eye, flash your flesh, desperate for a need to rise. Silver crystal arm, how well you used to know how to shine. In a place left safe from harm, but I had been blessed with a wilder mind. L'ascoltatore ha preferito rimanere anonimo, possiamo anche immaginare il perché. Questo appunto è l'incontro di due persone che hanno valicato quella linea di confine che è lo schermo di un computer, hanno deciso di incontrarsi ed è andata così. Tra pochissimo, dopo le borse in diretta, sentiamo una storia che è andata in tutt'altro modo. Linee d'ombra. L'amore quello vero si intitola la puntata di Linee d'ombra di oggi. Quale sarà l'amore quello vero? Noi non lo sappiamo e non ci proviamo nemmeno a indovinarlo. Però vi raccontiamo delle storie in modo che lasciamo a voi decidere se serve una definizione oppure no. Le linee d'ombra di cui vi raccontiamo oggi hanno a che fare appunto con quell'amore che nasce in una maniera molto molto particolare. Abbiamo cominciato la puntata con un pezzo preso da C'è posta per te, dal film intendo dire, perché c'era un amore che nasceva online. Ora quei siti di appuntamento ormai sono piuttosto vetusti, non si usano più, si usano delle app in cui si scarta con una foto, questa sì, questa no, questa sì, questa no. Al tempo c'era probabilmente un pochettino più modo di chiacchierare, ma in realtà credo che quelle cose si continuino a fare probabilmente con Facebook o con Instagram, chiaramente parlo dei messaggi diretti, quelli che non leggono tutti, e così nascono, di là dello schermo, delle amicizie e magari anche delle relazioni. Alcuni decidono di varcare la linea, ci vediamo, non ci vediamo, altri rimangono di qua, altri invece vanno di là. E la prossima storia che vi raccontiamo è proprio una di questa seconda categoria di storie. Sono due persone che si conoscono online diversi anni fa, sono persone adulte che vivono negli Stati Uniti e un bel giorno lei decide di andare a trovarlo e quello che succederà sarà piuttosto scioccante. Noi l'abbiamo ascoltato su uno dei nostri programmi preferiti che si chiama Snap Judgment. Hai 42 anni, sei separata, hai una figlia e cerchi una persona con cui passare il resto della tua vita. Se sei negli anni 50, non hai scelte. Quella persona è e rimarrà tuo marito, dal momento che il divorzio non esiste. Ma se sei nei primi anni 2000, hai diversi modi per cercare quella persona. E uno di questi è internet. Lorraine, la protagonista della nostra storia, si abbona ad uno di quei siti online in cui si cerca un compagno o una compagna. E dopo 3 anni di fallimenti, vede una foto di Yves. Nella foto lui, Yves, sta sorridendo guardando oltre l'obiettivo e tiene in mano una tazza, forse con del tè o del caffè. Lorraine ha la sensazione che quella foto e quell'espressione sappiano di domenica mattina. «E trovo che la domenica mattina sia molto sexy», dice lei, sorridendo. Cominciano a scriversi. Lui ha 2 figlie da un precedente matrimonio e continuano a scriversi prima messaggi molto brevi, poi messaggi sempre più lunghi e poi telefonate che durano una vita, durano tutta la notte fino all'inevitabile incontro. Dopo un paio di mesi i due decidono di incontrarsi a Montreal, dove Yves vive. Lorraine però non ha abbastanza soldi per una camera d'hotel e visto che sono 5 ore di viaggio in auto, l'idea di andare e tornare in giornata non è praticabile. E così lui, Yves, propone a Lorraine di stare nella camera di sua figlia, che in quel weekend sarà con la madre. Decidono di partire da lì, 2 amici che si incontrano per il fine settimana. E questo è di fatto quello che accade. Lorraine arriva in auto sotto casa sua, Yves la sta aspettando. Si salutano con un abbraccio, poi lui le mostra la casa e le dice «Devo guardare nel frigorifero», dice lei. Lui non capisce. Lei apre la porta, la richiude, chiama al telefono una sua amica e le lascia un messaggio in segreteria dicendo «Ciao cara, sono arrivata da Yves, sembra un tipo a posto e non ha cadaveri nel frigo, quindi stai tranquilla». Lui la guarda e le dice «Sì, ma non hai guardato nel freezer». I due scoppiano a ridere e inizia un fine settimana splendido. Yves porta Lorraine in giro per Montreal mostrandole le cose più belle della città. Tra i due c'è una grande sintonia dovuta anche ai messaggi e alle telefonate che si sono scambiati in questi mesi. Yves addirittura presenta a Lorraine la sua ex moglie e le 2 figlie. Fanno la spesa per la cena e mentre sono in cucina, Yves abbraccia Lorraine. Si baciano e non si fermano più. C'est tout ce que je peux t'aimer. Oui, je t'aime, t'aime, t'aime, t'aime. Je peux pas m'en empêcher. Quand bien même, même, même, même, tu viendrais à me quitter, je t'aimerai toujours, toujours. Mon amour, mon amour, n'importe où, n'importe comment. Mon amour, je t'aime éperdument. C'est pas possible, je dois rêver. on ne peut pas être aussi heureux. Je voudrais crier, je voudrais danser, faire chanter tous les amoureux. Car je t'aime, t'aime, t'aime, t'aime, c'est tout ce que je veux t'aimer. Oui, je t'aime, t'aime, t'aime, t'aime, je peux pas m'en empêcher. Quand bien même, même, même, même, tu viendrais à me quitter, je t'aimerais toujours, toujours, mon amour, n'importe où, n'importe comment. Mon amour, je t'aime éperdument. Più tardi, un uomo e una donna che non si sono mai visti prima dal vivo sono così felici che sono d'accordo di essere stati fortunatissimi ad incontrarsi quasi per caso. Il giorno dopo, il weekend continua nel migliore dei modi. Lorraine e Yves pranzano in un ristorante tenendosi per mano. Poi, quando tornano a casa, Yves è provato da un mal di testa che non gli dà tregua e si riposa per un paio d'ore. Lorraine lo segue e dorme anche lei per un po', fino a che dopo circa un'ora si sveglia perché sente un colpo violentissimo. Apre gli occhi e Yves non è nel letto. Quindi lo cerca, si alza, va in bagno. Lo trova per terra, con la schiena appoggiata alla parete. Non parla, ma le sue gambe tremano visibilmente. E non è in grado di muoversi. Lei chiama l'ambulanza che arriva subito e va in ospedale con lui, dove le dicono di tornare a casa, che non appena avranno notizie la chiameranno. E lei così fa. Torna nella casa di quello sconosciuto che ha visto poche ore prima e forse per lo shock, per l'adrenalina che cala, si addormenta di nuovo. Si sveglia la mattina dopo, quando l'ex moglie di Yves la chiama dicendole che Yves è tenuto in vita da un respiratore e che a breve lo staccheranno. Ma stanno avvisando gli amici di andare in ospedale per salutarlo. Lorraine allora si veste, torna in ospedale. Lì ci sono amici e familiari e ora sì che si sente un pesce fuor d'acqua. Ha la sensazione di essere ad una festa con l'abito sbagliato. In particolar modo Lorraine ha paura di incontrare la madre di Yves. Il padre è la prima persona che le parla, le dice che Yves ha avuto un'emorragia cerebrale e i dottori hanno deciso di non operare, perché sarebbe rimasto comunque cerebralmente morto per sempre. A quel punto Lorraine inizia a piangere. La madre le si avvicina, l'abbraccia e le dice: «Sono felice che quando è accaduto non fosse da solo, ma tu fossi con lui». Poi la guarda e le chiede: «Vuoi rimanere un po' sola con lui?». E così tutti escono dalla stanza. Lorraine guarda quell'uomo che ha conosciuto per poco più di 24 ore e gli parla. Gli dice che la sua famiglia si prenderà cura di sua figlia, che starà bene. Lo ringrazia per il tempo insieme e poi, visto che tutto il corpo è coperto di tubi e di aghi, l'unico lembo di pelle libero è il dorso di una mano, gliela prende, la bacia e gli dice: «Ti amo». Poi esce e se ne va. We sleep through the night. Did you notice, babe? Everything's alright. Thank you. storia splendida e terribile, dipende dai punti di vista, da come la si possa vedere, anche molto molto dolce e malinconica, che abbiamo raccontato. È accaduta un bel po' di anni fa e noi l'abbiamo sentita in questo programma radiofonico di narrazione, di storytelling, che si chiama Snap Judgment. Si intitolava la puntata First and Last Day, primo e ultimo appuntamento. Ora sentiamo Le strade in diretta, poi torniamo qui a Linee d'ombra. Linee d'ombra. Due storie in una puntata che si intitola L'amore, quello vero, che parlano di incontri da lontano. Si parla, dove per da lontano si intende internet ovviamente, si parla in entrambe le storie di amori che sono nati quando c'erano i primi siti di incontri, e quindi tante chat, lunghissime chiacchierate. Oggi la situazione probabilmente è leggermente cambiata. Per farcela raccontare un pochettino com'è la situazione oggi, quella del dating online, noi abbiamo trovato un libro che aveva già dal titolo, si capiva che era molto molto interessante. Intitola Tinder and the City e racconta appunto le avventure e i disagi che si vivono nel mondo delle dating app, cioè delle app per appuntamento. L'autrice è Marvi Santamaria ed è con noi. Pronto? Ciao Marvi, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Benissimo, questa è, diciamo, una domanda di rito che in questo periodo noi facciamo sempre. Giusto, è per... ancora più importante farla. Assolutamente, assolutamente. Senti, tra l'altro in questo periodo credo che sia molto difficile usare le dating app, giusto? Perché insomma dobbiamo stare a casa e probabilmente il contatto umano per ancora qualche tempo, soprattutto con persone che non si conoscono, è sconsigliato. Ma tornerà il momento in cui potremo usare le app. Tu come ci sei finita a ravanare in questo mondo e che cosa hai capito, Marvi? Dunque, io ci sono finita così in maniera spontanea e per caso, perché mi sono trasferita a Milano alcuni anni fa, e avevo 25 anni, ero single, non conoscevo nessuno, ero in una città grande e a un certo punto un mio amico mi disse: ma sai che è uscita questa app, si chiama Tinder, serve per conoscere persone, appunto per conoscere sconosciuti. E allora, siccome sono sempre stata appassionata di mondi virtuali, di chat, sono sempre stata smanettona e un po' nerd, subito mi sono incuriosita e quindi ho cominciato un po' ad esplorare, a ravanare, come dicevi tu, in questo mondo. E ravanando, esce fuori un po' di tutto, appunto, sia disagi che anche avventure più, appunto, divertenti e da poter anche raccontare appunto. Marvi, senti, mi raccontava Anita che nella chiacchierata che avete fatto insieme, tu le citavi le diverse app che ci sono, perché hanno, come dire, motivazioni e obiettivi diversi, no? Per cui Tinder, grosso modo, più o meno sappiamo tutti che cosa serve. C'è una grande foto che tiene tutto lo schermo. Se vuoi, non mi ricordo più se vai a sinistra accetti, se vai a destra non accetti. Però insomma, a destra è ti piace, a sinistra lo scarti. Ok, però gli altri invece, c'è ad esempio un'app che si chiama Appen, in cui sì, tu di fatto cerchi le persone che sono vicino a te in quel momento, giusto? Esatto, quella ragiona per raggio d'azione molto stretto, cioè la promessa che fai è farti ribeccare quella persona che hai incrociato sul marciapiede o sui mezzi e con la quale non hai avuto magari il coraggio di presentarti, di fare un approccio, un avance. E questa è stata tale app che ho utilizzato di più, soprattutto nel primo periodo, e devo dire che è stato molto, mi ha dato degli incontri molto interessanti, devo dire. In quel caso cosa fai, Marvi? Una volta che avessi beccato quella persona interessante incrociata sul marciapiede, ne beccavo altre. Ah, infatti, perché la domanda era, scusami, cosa fai? La incontri sul marciapiede, minimo scambio di sguardi, 50 metri dopo scrivi: ciao, ci siamo appena incontrati, ci beviamo un caffè, funziona così? Esatto, lì il tempismo sarebbe tutto. Peccato che se poi l'altra persona non ha installata l'app, non la trovi comunque dentro l'app, quindi... Oh, quindi trovi qualcun altro e dici: vabbè dai, non era su quel marciapiede, era in piazza, ma va bene, sì, uguale. Infatti, allo stesso evento, per esempio, esatto, funziona così. Senti, ma invece esistono ancora quelli, chiamiamoli old school, proprio vecchio stile, visto che noi abbiamo raccontato due storie che avevano a che fare con quel tipo di siti, tipo Meetic, quelli in cui c'è vieni profilato, devi inserire tutti i tuoi dati e che proprio più si usavano, un tempo si usavano da browser, cioè da computer. Esistono ancora? Sì, esatto. Sono cambiati? Sia Meetic che Badoo sono ancora delle piattaforme web, quindi non delle applicazioni, esistono ancora e ti dirò di più, sono tra le più utilizzate in Italia. Sia Meetic che Badoo. Infatti le prime applicazioni utilizzate, comunque siti per incontri, non sono né Tinder né Happn, paradossalmente, in Italia. Ma quindi questo ci dice qualcosa? Tinder è la più conosciuta. Ci dice qualcosa della volontà degli incontri degli italiani, cioè che gli italiani vogliono incontrarsi per creare una storia invece che per un incontro fugace? Sì, onestamente penso proprio di sì, ci dice qualcosa, perché comunque nonostante tutto, nonostante i disagi e le delusioni, c'è ancora una bella fetta di popolazione sia maschile che femminile, più femminile devo dire, che cerca l'amore, l'amore vero su queste piattaforme. E Mythic per esempio ne ha fatta proprio la sua mission, e non è impossibile comunque trovare appunto l'amore su queste app. Spezziamo anche una lancia. Esatto, a favore, brava. Ti diamo un po' di speranza. Senti Marvi, esiste ancora lo delle coppie. Esiste ancora lo stigma di Tinder? Perché a me capita ancora tra amici che magari sono single, ho incontrato questa e nelle chat, boom, arriva la foto, occhio perché è su Tinder. Come dire, è su Tinder, quindi è semplicemente ha voglia di cercare qualcuno, però di fatto, no? Se uno è un fatto, se uno è single, sì, ha voglia di incontrare qualcuno. Ma esiste il ancora questa è... cosa che non si dice, ci siamo conosciuti su Tinder perché, fa brutto? Sì, esiste ancora tantissimo, un pregiudizio negativo forte sulle app in generale, su questo mondo e sulle persone che utilizzano le app, ovviamente con una differenza di genere che è più negativa, Sava Sandir, sulle donne. Come hai citato, l'esempio che hai citato tu è lampante. Se una donna sta sulle app e addirittura cerca solo un appuntamento così en passant, un divertimento, viene vista in maniera negativa come una ragazza facile. Purtroppo ancora questo pregiudizio è forte, ma perché? Diciamo che se le app ci hanno dato degli strumenti di empowerment, soprattutto anche femminile, quindi di liberazione anche sessuale, la società però è rimasta con gli stessi stereotipi appunto culturali e sociali di decenni certo. fa. Quindi una volta non è andata avanti. Una volta era la gonna corta, adesso sei su Tinder. Esatto, ottima Senti, metafora. Prima di salutarti, Marvi, perché chiaramente con queste nuove app sono nati anche delle nuove termini e il linguaggio è cambiato. La cosa che più mi manda fuori di testa è il termine ghosting. Mi spieghi chi fa ghosting, cosa fa? Praticamente dall'oggi al domani scompare su qualsiasi canale di contatto. Ma però è un'usanza vecchissima questa. Non esatto, ha a che fare lo si faceva anche prima delle app e lo si faceva anche in amicizia, non per forza nei rapporti, anche gli amici scompaiono dall'oggi al domani. Certo. Le app però hanno agevolato questo fenomeno, perché a quel punto scomparire è facilissimo, ti basta bloccare la persona, bloccare il contatto, chiudere proprio la chat e la connessione, diciamo, no? Evitare qualsiasi connessione, perché ognuno diventa solo un contatto dell'agenda digitale dell'altro. Quindi è facile switchare, fare off. Una volta si chiamava fare il gioco del mago, però quello era un'altra definizione. Marvi, ti ringrazio molto per la chiacchiera e la spiegazione. Se volete saperne di più, leggetevi Tinder and the City. In bocca al lupo per tutto. Ciao Marvi, a presto. Crepi, grazie. Just you know why you and I will by and by no true love ways. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why. Just you and I know true. Throughout the days, our true love ways will bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why. Just you and I know true love ways. E chiudiamo anche la puntata di oggi con la nostra storia seriale. È l'ultima della settimana, quindi potrete riascoltarvi tutte e cinque le puntate domani sera, il sabato alle 21.30, nello speciale di Linee d'Ombra dedicata alla storia seriale, che di fatto è l'ultima che compie quell'arco narrativo legato ai vizi capitali. Come saprete già, Linee d'Ombra da un paio di settimane non racconta più solo le storie dei vizi capitali, ma racconta storie legate a un confine e a un passaggio di quel confine, mentre con le storie seriali abbiamo voluto chiudere il ciclo. Mauro Pescio ha trovato questa giovane donna che ci ha contattato direttamente tramite la nostra mail e ci ha raccontato la sua storia di anoressia. Questa è una storia che racconta della gola. quello che non è nei, in certi parametri, non se ne parla assolutamente, fine della trasmissione. Quindi non ce n'era neanche la possibilità del dialogo. Non se ne parla e basta. E non se ne parlava e basta anche nelle cose più semplici, come da dire, sfoglio una rivista che ha un orientamento politico diverso dal tuo, perché no? Cioè, devo farmi una mia opinione, per dire. E dove potevo andare io? Potevo andare in biblioteca, perché lì andavo a studiare, allora la biblioteca era un posto serio, però si tornava prima che venisse meno la luce del sole, e in parrocchia. Sì, la mia seconda evasione era la parrocchia. Aveva una madre spirituale, Suor Lucia, di grande intelligenza e sensibilità, che mi ha capita immediatamente e quindi mi ha dato la possibilità di fare delle cose che avrebbero potuto aiutare il mio percorso di crescita. Abbiamo creato dei centri di assistenza per ragazzini bisognosi. Li facevamo fare i compiti e questo aiutava la mia socialità. Tutto quello che ho fatto in parrocchia per me era un modo per confrontarmi e mettere in discussione quello che vivevo a casa. Intanto però crescevo, e crescendo cambiavano i miei desideri, ma a casa tutto restava immutabile. A 13 anni portavo due occhiali molto spessi, gli ormoni non avevano fatto ancora la loro presenza e non mi sentivo a mio agio con le mie altre compagne, che mi sembravano tutte molto più carini di me. Per mio papà io non mi potevo truccare perché non stava bene. Avevo allora cominciato a farmi crescere i capelli. Ero molto magra, sono sempre stata molto magra perché comunque ho sempre mangiato molto poco. Un giorno vado dalla parrucchiera e mi faccio una sorta di permanente. Erano i primi anni 80 e facevano delle permanenti molto gonfie che per me avevano un unico significato. Da dietro, almeno, sembro una femmina. Mia mamma, come mi vede, torna a casa e mi fa: oh mamma mia, che schifo che fai. Era il suo modo di dire questo. Allora, solo che non lo dice, non l'ha detto una volta, l'ha detto per 3 giorni consecutivi ogni volta che mi vedeva. Per cui io ho preso, sono andata alla parrucchiera e gli ho detto: ascolta, mi rasi a zero per piacere. Non era possibile, cioè bisognava troncare questa cosa. Vado dal parrucchiere, mi faccio finita scuola, mi taglio i capelli, mi ricordo che aveva le lacrime agli occhi, vado poi da Suor Licia, mi vede e mi fa: tu è che hai incontrato me, altrimenti potresti diventare una terrorista. Mi ricordo le sue parole, nel senso: devi mettere un po' di bombe per fare in modo che qualcuno o si accorga di te o per distruggere quello che è attorno, perché fa: per fortuna che hai incontrato me. E dopo abbiamo fatto teatro, abbiamo fatto tantissime cose, però capisci l'inizio della pentola a pressione. La pentola a pressione ha una valvola e qui, caspita, nella valvola ci mettevi il cemento armato. In ogni puntata di Linee d'Ombra cerchiamo sempre di raccontarvi un piccolo mucchietto di storie, un'ora compressa di pillole di storie per conoscere il mondo in questo periodo, anche per distrarsi un pochettino quando serve, magari facendosi una passeggiata e ascoltando una storia di Linee d'Ombra. E l'ultima storia che vi raccontiamo, quella seriale, lo sentite, la raccoglie Mauro Pescio, che raccoglie direttamente dalla voce di chi la vuole condividere quella storia, tutta la sua biografia. E qui Anna Maria lo sta facendo come sempre succede, con il cuore in mano, e noi le siamo molto molto grati. Riascoltatevi tutte le 5 puntate della settimana domani sera alle 21:30 oppure in podcast. E vi auguro un ottimo fine settimana, state a casa, godetevelo il più possibile, state vicino alle persone a cui potete stare vicino, e se no scriveteci una storia o il vostro diario di questo periodo complicato, oppure una storia qualunque. lineedombra@radio24.it. sarà intensa, ma ce la faremo. Godetevi il weekend, noi torniamo a raccontare storie lunedì prossimo, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!